Huyelele mama, huyelele mama siya chavula tina. Helele mama, helele mama. Oh yeah. Helele mama, helele mama. Zimbabwe. Helele mama, helele mama. Oh yeah. Helele mama, helele mama. Oh Zambia. Helele mama, helele mama. Oh yeah. Helele mama, helele mama. Malawi. Helele mama, helele mama. Oh yeah. Helele mama, helele mama. Mozambique. Helele mama, helele mama. Oh yeah. Helele mama, helele mama. Angola. Helele mama, helele mama. Oh yeah. Helele mama, helele mama. Botswana. Helele mama, helele mama. Oh yeah. Helele mama, helele mama. Lesotho. Helele mama, helele mama. Oh yeah. Helele mama, helele mama. Swaziland. Helele mama, helele mama. Oh yeah. Helele mama, helele mama. South Africa. Helele mama, helele mama. Siyajabula thina. Helele helele helele mama. Siyajabula thina. Helele mama, helele mama. Siyajabula thina. Helele helele helele mama. Siyajabula thina. Helele mama, helele mama. Oh Africa. Helele mama, helele mama. Oh Africa. Helele mama, helele mama. Oh Africa. Helele mama, helele mama. Oh Africa. Helele mama, helele mama. Oh Morocco. Helele mama, helele mama. Oh Somalia. Helele mama, helele mama. Oh Ghana. Helele mama, helele mama. Oh Nigeria. Helele mama, helele mama. Oh Gambia. Helele mama, helele mama. Oh Sierra Leone. Helele mama, helele mama. Oh Kipiti. Helele mama, helele mama. Oh Africa. Helele mama, helele mama. Siyajabula thina. Helele mama, helele mama. Siyajabula thina. Helele mama, helele mama. Siyajabula thina. Helele helele helele mama. Siyajabula thina. Helele mama, helele mama. Oh Africa. Helele mama, helele mama. Oh Africa. Helele mama, helele mama. Oh Zimbabwe. Helele mama, helele mama. Oh Zimbabwe. Helele mama, helele mama. Siyajabula thina. Helele helele helele mama. Siyajabula thina. Helele mama, helele mama. Siyajabula thina. Helele helele helele mama. Siyajabula thina. Helele mama, helele mama. Ciao a tutte e tutti, bentornati e bentornate a Uru, la trasmissione che parla di musica africana. Vi ricordo che potete ascoltarci in streaming su wombat.noblogs.org oppure in AM a 1359 oppure potete andare sempre sul sito wombat.noblogs.org e dal menu andare nei podcast per ascoltare o scaricare tutte le trasmissioni precedenti. Sul sito c'è anche un'app, la Wombat 1.0, a breve ci sarà la 2.0, quindi se state usando l'app controllate che tra poco dovrebbe uscire la nuova. Sì, puntata 66 di Uru, incentrata sui suoni del township e in particolare, se non unicamente, il jazz, la scena musicale degli anni vanno dai 50 agli anni 70 nelle township era dominata da questo genere musicale, e nei bar e anche nelle strade di quelle erano le principali township del periodo, e che tra l'altro le sono tuttora: Sophia Town e Soweto a Johannesburg, e Mitchell's Flat e Cape Flat a Cape Town, la città del capo, in cui andarono a abitare la popolazione nera sfrattata, cacciata da quello che era il District 6, il distretto multiculturale per eccellenza e multiraziale per eccellenza di Cape Town fino agli anni 60. Ecco, in queste township ha grande importanza, grande peso, predominanza il jazz. Sì, perché il jazz sudafricano ha molti elementi che hanno contribuito alla sua evoluzione e al suo sviluppo. Il più importante e significativo è la ricca diversità culturale degli abitanti del paese e l'influenza della cultura musicale afroamericana su di esso, specialmente negli anni, in questi anni qua di cui stiamo parlando. Queste due varianti, abbinate a un ambiente segnato dall'apartheid, dalle violazioni dei diritti umani, hanno creato una matrice artistica responsabile dell'evoluzione del jazz sudafricano. Il primo contatto informale che gli abitanti di Città del Capo hanno avuto con gli afroamericani avvenne durante la guerra civile americana, quando la nave da guerra confederata Alabama entrò nel porto di Città del Capo nel 1862 per rifornirsi. Un equipaggio misto di mercenari britannici e marinai bianchi del sud presidiavano la nave. A bordo però c'era anche un piccolo contingente di schiavi afroamericani che servivano da addetti alle pulizie e fornivano tra l'altro anche una sorta di intrattenimento musicale per l'equipaggio. Quando l'Alabama attraccò a Città del Capo, gli afroamericani diedero improvvisati recital musicali al molo dove era ormeggiato l'Alabama. Il secondo contatto è stato il 19 giugno 1890, quando la compagnia del menestrello Orpheus Myron McAdoo con i Virginia Jubilee Singers presentò una serie di concerti sempre a Città del Capo. Il loro aspetto avrebbe avuto un impatto significativo sulla scena musicale perché influenzò la formazione dei Clapse Clopse o Carnevale dei Con, che fin dalla sua nascita all'inizio del secolo è praticamente il carnevale di strada dei menestrelli, divenne parte integrante della cultura di Città del Capo durante le celebrazioni del nuovo anno. Carnevale dei Coon. Coon o nigger erano l'equivalente del termine dispregiativo sudafricano di Kaffir, Bosman, Kool-Aid, Not, che designavano naturalmente le persone di colore. La popolarità di questo carnevale diminuì man mano che sempre più giovani diventarono politicizzati mentre la lotta di liberazione si intensificava. La storia musicale indica anche che il loro impatto e l'influenza sulla cultura del Capo orientale è stato abbastanza significativo, perché influenzò le già ricche tradizioni corali Xhosa che esistevano lì. È in qualche modo ironico che questo genere di musica creola, africana, americana dei menestrelli è diventato poi, diventerà poi uno degli elementi chiave dello sviluppo del jazz a New Orleans. Ai musicisti bianchi che lo suonavano e al pubblico bianco che ballava in America o nelle colonie britanniche europee divenne noto questo tipo di jazz come Dixieland. L'introduzione del jazz in Sudafrica risale, diciamo, al poco dopo la Prima Guerra Mondiale. La prima registrazione è stata fatta nel 1917, ma data la vita sociale e le terribili condizioni delle cittadine nere sudafricane, è facile capire perché l'introduzione della radio, del grammofono e delle registrazioni di New Orleans jazz fungessero da catalizzatore per gli stili in via di sviluppo della musica nelle prime township degli anni 20. Ma fu a Queenstown, nella provincia del Capo Orientale, che il jazz si sviluppò e cominciò a prendere la caratteristica sudafricana. Negli anni 20 Queenstown divenne nota come Little Jazz Town a causa delle numerose band in stile New Orleans che vi risiedevano. Fu durante la fine degli anni 20 che Bert Gash, un organista itinerante di Queenstown, rese popolare il sistema dei tre accordi, il precursore degli stili marabi e mbakanga, che in seguito andarono perfezionando negli ambienti urbani cioè nelle township di Johannesburg e Marabastad, alla periferia di Pretoria. Sophia Town, il leggendario ghetto di Johannesburg, divenne il terreno di sperimentazione per questa vibrante musica di città, che doveva essere ulteriormente innovata negli anni 30 e negli anni 50. La musica delle township è servita da importante piattaforma e veicolo per lo sviluppo di cantanti e strumentisti. E uno di questi interpreti jazz era Geremia Kippi Moekezi, appunto un jazzista sudafricano nato a Johannesburg, e di lui vi facciamo ascoltare il primo pezzo di questa rassegna di suoni delle township, che si intitola Old Devil Moon, in cui tra l'altro è affiancato, oltre ad altri jazzisti sudafricani meno conosciuti, anche da Hugh Masekela. Il pezzo appunto si intitola Old Devil Moon. Thank you. alcuni dei grandi gruppi jazz di Sophia Town sono per esempio Jazz Maniac, i Manhattan Brothers, i Four Sisters, e tra questi anche le Skylark, un gruppo tutto al femminile composto da Miriam Makeba, Abigail Kubeka, Letta Mbulu e Mary Rabotaba. Di loro vi facciamo ascoltare il prossimo pezzo, che si intitola Oli Lili. Gli anni 50 sono ricordati come i giorni della resistenza passiva contro il razzismo istituzionalizzato del governo dell'apartheid, ma anche ricordato come una grande epoca di sviluppo del jazz in Sudafrica, cioè jazz proveniente o con influenza afroamericana. Si sviluppano generi propriamente sudafricani, tra cui la kwela, il maraghi e l'mpanganga. Uno dei maggiori esponenti di quest'ultimo genere musicale è Lemmy Mabaso. Sì, vissuto a Soweto, ha sviluppato la passione per la musica quando suo padre gli ha regalato il penny whistle, cioè i famosi, di cui abbiamo parlato già in un'altra puntata, flauti fatti di latte. Nel 79 Lemmy Mabaso raggiunge i Soul Brothers e con loro rimarrà fino alla fine. Lui è un esponente della mbakanga e della kwela, con appunto il penny whistle, e di lui ci ascoltiamo Kwela Blues. Thank you. è la Fiera del Libro di Algeri. Si tiene alla periferia est della capitale algerina e quest'anno si è conclusa a metà di novembre dopo 12 giorni di fiera. Gli organizzatori dichiarano una cifra iperbolica: 2 milioni e 200 mila visitatori, mezzo milione in più dell'anno precedente. Sono numeri importanti anche considerati paragonabili a quella delle fiere internazionali che si svolgono in altre città africane, in particolare quella del Libro del Cairo. In rete si possono vedere le file di auto lunghe chilometri, appunto, di persone che stanno andando parteciperanno a questa fiera del Libro di Algeri. Tenete presente che 2 milioni e 200 mila visitatori significa 15 volte in più i visitatori del Salone del Libro di Torino, in un paese tra l'altro in cui ci sono meno di 40 milioni di abitanti. Bisogna sapere, fuori Algeri le librerie sono pochissime e nei piccoli centri proprio non esistono. Al massimo c'è qualche negozietto che vende libri usati e persone di buona volontà che raccolgono libri da far leggere a chi non li può comprare. Non c'è neppure la possibilità di comprare libri su Amazon o su altre piattaforme digitali, perché una discriminazione appunto monetaria, in questo caso Amazon non accetta la moneta algerina e quindi bisognerebbe comprarle pagandola in euro. Dunque ogni anno i lettori di un'intera nazione si mobilitano e viaggiano fino all'Algeria, per questo c'era questa lunghissima fila di auto per arrivare alla fiera del libro, in occasione appunto del Salone del Libro. Le persone mettono pazientemente da parte i soldi per comprare i libri e dovranno durare per l'intero anno successivo. C'è gente che parte dal sud del paese, dall'area desertica dell'Algeria, per comprarsi i libri, viaggia due giorni dormendo in macchina. E questo è un aspetto, ma bisogna anche tenere presente che il libro è importante nella cultura algerina, è un oggetto che ha un valore in sé. E tra l'altro un altro degli aspetti, neppure tanto secondario, è che i bambini devono crescere con i libri. Dunque, anche se tutti ormai hanno un cellulare anche in Algeria e si scaricano selfie a raffia, il libro è ancora un oggetto di culto, un oggetto sacro sostanzialmente. Una sorta di talismano che però serve ad riappropriarsi della realtà. Per questo il Salone del Libro è considerato un evento di rilevanza e di interesse nazionale e si tiene non a caso durante il periodo di vacanza delle scuole, in occasione della festa della rivoluzione, in modo che intere scolaresche da ogni parte del paese possano andarci. È una bella immagine, ecco, pensare a queste carovane, in questo caso motorizzate, che partono da tutte le zone dell'Algeria e da posti lontanissimi, che vanno fino a Algeri per poi portarsi indietro, portare a casa un proprio tesoro di carta che duri per un anno intero. Ritorniamo alle township sudafricane con Almon Memela, compositore, chitarrista e produttore, nato nel KwaZulu Natal. La sua prima chitarra l'aveva costruita con le sue mani. Ha lavorato per un po' per la United Tobacco Company in Durban e si è spostato a Johannesburg nel 1956 per lavorare in miniera, come quasi tutti quelli che stavano nelle township. Intanto ha avuto la fortuna di trovare uno dei più grandi chitarristi sudafricani, Dorke House, che gli ha fatto lezione di chitarra e quindi l'ha iniziato al jazz. Lui ha un po' cambiato lo stile fondendo il jazz al soul. Di lui ci ascoltiamo We Do in Soweto, Almon Memela. E sempre a proposito di jazz, un appuntamento domenica 2 dicembre nel pomeriggio al CSA Ernest Emerson di via Villaggio a Firenze. Si inizia alle 18 con l'arte irritata, un archivio di più di un migliaio di opere provenienti dalle istituzioni totali, presentato dall'autore appunto del libro, Nicola Valentino. Alle 19:30 gruppi di resistenza umana, improvvisa umanità resistente, orchestra di musica urbana contemporanea, popolare, jazz. E sostanzialmente croci poliritmi e groove, improvvisazioni corali su temi musicali come Pietà le morte, Call for Demons di San Ra, Partigiano di Anthony Preston, Composition 23D di Anthony Preston, Fischia e Vento, Bella Ciao, Barunchi, Attraversando Valli e Monti. Insomma, sostanzialmente una rivisitazione in chiave jazzistica di pezzi della tradizione popolare e non solo. Ricordiamo, domenica 2 dicembre a CSA Next Emerson nel pomeriggio. Il prossimo pezzo è di Margaret Nomvula Mcigana, nata nel Queensland, nell'Eastern Cape, dove lavorava come domestica. Negli anni 50 si è dovuta spostare da Queensland a Johannesburg in seguito alle leggi sulle aree fatte dall'apartheid. Mentre lavorava, quindi mentre puliva cantando, un produttore di musica l'ha sentita e le ha dato una parte in un coro in un film. Negli anni 70 ha cominciato a cantare, a essere la cantante dei The Symbols, e nel 72 con questa band ha fatto un pezzo che si chiama Good Feelings, che è arrivato secondo nella hit parade sudafricana. Quindi da lì ha cominciato tutta la sua carriera musicale, diciamo. Di lei ci ascoltiamo Ubukule. un dossier sulla restituzione del patrimonio artistico africano fa tremare i musei parigini. Secondo le anticipazioni di questo rapporto pubblicate dal quotidiano Le Monde, alla Galleria Corée Branly di Parigi, per esempio, 2/3 degli oggetti esposti vengono da paesi dell'Africa subsahariana e sono stati depredati durante il periodo coloniale. Si tratta di 70.000 manufatti che potrebbero essere oggetto di una procedura di restituzione. Gli altri 20.000 sono distribuiti in altri musei o città portuali francesi, Cherbourg, Le Havre, La Rochelle, Bordeaux, Nantes, Marsiglia. Secondo gli esperti, tra l'85 e il 90% del patrimonio artistico africano si trova al di fuori del continente e la Francia ospita circa 90.000 opere. Il rapporto menziona anche oggetti provenienti da paesi che non sono stati colonizzati dalla Francia, come per esempio il Ghana, la Nigeria o l'Etiopia, ma le cui opere si trovano in collezioni pubbliche francesi, suggerendo di estendere il processo di restituzione anche a loro. Ritornando appunto al jazz, a questa piccola storia del jazz delle township sudafricane, dopo questa grande espansione degli anni 60 cominciano un po' di problemi a causa della situazione politica sempre più repressiva, e tanto che molti strumentisti, musicisti jazz lasciano il paese, nonostante che lasciano un impatto, un seguito all'interno dei più giovani che ancora continuano a vivere nelle township e che continuano a sviluppare, a portare avanti questo particolare jazz sudafricano. Molti morirono in esilio prima che potessero tra l'altro ritornare, sperimentare un minimo, una piccola libertà, di una democrazia nella loro terra natale. Molti diversi rimasero e continuarono a produrre una musica creativa. Da questo punto di vista va segnalato Winston Mwabizi Nkunku Ngozi, che tra l'altro è una particolarità, nel senso che fu per continuare l'attività di jazzista fu incorporato in alcune band nel corso degli anni, in particolar modo nel corso degli anni 60-70, da alcune band jazz formate da musicisti bianchi. Ma nonostante ciò, appunto, nonostante Nkunku Ngozi continuasse a suonare e per continuare a suonare facesse parte di band composte da bianchi, gli fu impedito sostanzialmente di suonare anche in queste band. Scelse comunque di rimanere nella nativa città del Capo durante tutto l'apartheid. Di lui ci ascoltiamo uno dei pezzi più conosciuti, che si intitola Yakal Nkomo. Thank you. Questa è Radio Wombat, ci state ascoltando su wombat.noblogs.org allo streaming oppure sul 1359 AM. Vi ricordo anche che Urush ha le repliche venerdì alle 21.30 è la diretta, ma poi c'è la domenica sera alle 23 la prima replica e il lunedì alle 8.30 del mattino la seconda. Potete seguire la radio anche attraverso i social, cioè Twitter, che è twitter.com/radiowombatfi. Uru ha un proprio profilo Twitter che è uru-rw. La posta della radio è postawombat@insiberia.net. Vi ricordo che dal sito, sempre dal sito, potete controllare il palinsesto oppure ascoltare o scaricare i podcast di tutte le trasmissioni precedenti della radio. I'm sitting down doing nothing, questo è il titolo del prossimo pezzo, l'ultimo pezzo ad eseguirlo sono i The Drive, questo gruppo musicale basato in Sophia Town, che purtroppo vede la morte dei due elementi trainanti appunto del gruppo. Di loro vi abbiamo già fatto ascoltare in trasmissioni precedenti di Uru alcuni pezzi, in questo caso, cioè nelle trasmissioni precedenti eseguiti da gli elementi superstiti, che appunto tributavano un'incisione appunto di tributo ai Drive. In questo caso sono proprio i Drive, uno dei loro primi pezzi incisi è I'm Sitting Down Doing Nothing. E finisce qui la puntata di Uru. Vi aspettiamo la prossima settimana. Ciao a tutte e tutti. Ciao ciao Wombat. Sia chavu latina, sia chavu latina, sia chavu latina, sia chavu latina, wo Ethiopia, wo Uganda, wo Kenya, wo Tanzania, wo Ghana, wo Nigeria, sia chavu latina, sia chavu latina, sia chavu latina, sia chavu latina, mama, helele mama.